Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per me, quando c'è un processo, i cittadini sono tutti uguali. Anzi, se mio padre ha commesso qualcosa, non soltanto è giusto che vada a processo subito. Mi piacerebbe pensare che se fosse davvero colpevole, dovrebbe avere una pena doppia. Insomma, l'avete sentito, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, Renzi stasera a 8:30 sulla 7, dopo che tu dicevi, insomma, dirà qualcosa su questa inchiesta Consip in cui è coinvolto anche suo padre Tiziano Renzi, che oggi è stato interrogato. Ebbene, ne ha parlato a 8:30 con Lilli Gruber, è ancora in onda, sentiamo che altre dichiarazioni fa Renzi. Ha difeso Lotti, dice potrei scommettere sulla sua innocenza, e poi avete sentito appunto sul padre, ha detto se fosse davvero colpevole meriterebbe pena doppia, e ha detto anche che c'è dietro un disegno, secondo lui, che dice questa è una storia vecchia, in realtà non credo al complotto. Ma sentiamo, ecco, adesso ritorna a parlare Renzi. Venga alla sostanza politica. Questo è un paese che deve correre. Da un lato c'è 5 Stelle, i garantisti un giorno sì, un giorno no, come le targhe alterne. Quelli che quando indagano i loro, fiducia nella magistratura, quando indagano gli altri, mozione di sfiducia. Ok? Questi sono i 5 Stelle. Dall'altro c'è il centrodestra, che in questi 20 anni abbiamo visto all'opera, piaccia o non piaccia. Bene, noi abbiamo delle proposte per l'Italia. Queste proposte sono proposte che sono proposte concrete e che noi stiamo continuando a portare. Io sto girando come un matto, anche facendo cose che non avevo fatto in passato, sbagliando. Sono stato nella Locride, sono stato a Taranto, sono stato a Castellaneta, sono stato a Cernusco sul Naviglio per l'edilizia scolastica. Sto girando in questo paese senza cerimoniali, con il trolley, tranquillo, bello, a scoprire le cose, anche perché io sono fuori da tutto, eh? Non sono parlamentare, non ho il vitalizio, non ho l'immunità, non ho l'indennità, quindi sono uno libero. Bene, vedendo questo paese, io voglio discutere delle questioni che riguardano le persone, non delle questioni che riguardano gli addetti ai lavori romani, che si parlano addosso, stanno le ore a discutere e nel frattempo i lavori in Parlamento vanno a rilento. Ecco, quindi questo Renzi che torna a parlare è a 8:30, avete sentito sulla 7, ce ne occuperemo ampiamente, sia dell'inchiesta Consip, quindi dal punto di vista giudiziario, sia anche del livello politico, visto che poi è anche l'ultima puntata della settimana, quindi sapete che facciamo un po' il bilancio della politica della settimana, ma in ogni caso oggi è doveroso, vista anche l'incidenza forte che questa vicenda ha sugli equilibri politici. Per i vostri messaggi, le vostre osservazioni, i vostri interventi, pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure c'è il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Direi, prima appunto di approfondire questi temi così importanti, di riassumere come sempre la giornata. Inchiesta Consip, interrogato a Roma Tiziano Renzi, che rigetta ogni accusa. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi a 8:30 dice c'è un disegno dietro, è una storia vecchia, ma se mio padre è colpevole auspico una pena doppia, e difende Lotti, ma il Movimento 5 Stelle e Lega chiedono la sfiducia per il ministro. Stadio della Roma, pareri negativi in conferenza dei servizi, negata la sospensiva di 30 giorni. Redditi dei politici, tre ministri, vince Fedeli, il più povero Martina, in calo Grillo, stabile Renzi. Orrore in Irlanda, scoperta una fossa comune in un ex orfanotrofio cattolico chiuso 50 anni fa. Francia, Marine Le Pen convocata dai giudici per essere indagata. La leader del Front National annuncia non risponderò. Migranti, incendio nel granghetto di Rignano in Puglia, morti 2 migranti, il PM esclude l'origine dolosa. Calcio per l'acquisto del Milan, cinesi impegnati per il closing il prima possibile, ritardi per cause fuori controllo, dicono pronto un piano di investimenti. Partiamo quindi dall'inchiesta Consip. Oggi è stato il giorno dell'interrogatorio di Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, indagato per traffico di influenze nell'ambito appunto dell'inchiesta sugli appalti della Consip. Renzi senior ha respinto ogni accusa, come ha spiegato il suo legale una volta finito l'interrogatorio. Il dottor Renzi, ha detto l'avvocato, ha risposto a tutte le domande e ha precisato di non aver avuto alcun ruolo in questa vicenda, aggiungendo che il suo assistito ha negato di aver mai conosciuto né incontrato Alfredo Romeo, che è stato l'imprenditore arrestato nei giorni scorsi, e di essere mai stato in Consip. Nel corso dell'interrogatorio ha escluso anche di conoscere Denis Verdini. Nel frattempo a Firenze i PM della Capitale e di Napoli hanno convocato l'imprenditore farmaceutico amico del padre dell'ex premier Carlo Russo, che però si è avvalso della facoltà di non rispondere. E nella trasmissione 8 e mezzo sulla 7, l'avete sentito poco fa, Renzi ha detto che se suo padre fosse davvero colpevole meriterebbe una pena doppia per dare un segnale. Aggiunge però che dietro a questa vicenda potrebbe esserci un disegno, poiché dice è una storia vecchia. Scommette sull'innocenza del ministro Lotti, per il quale il Movimento 5 Stelle e Lega annunciano una mozione di sfiducia. Sentiamo ancora un piccolo passaggio di Renzi sulla 7. Che hanno detto di sì al futuro del paese e che hanno voglia di rimettersi in moto, e questa gente non ne può più delle nostre, permettetemi di dire, vostre discussioni che si vostre. Risparmiano, che si risolvono semplicissime, perché io non voglio, sono qui apposta, sono venuto. Sì. Processi si fanno, sì, sono stati decenni in cui in Italia si studiavano le leggi per non fare i processi. Io sono per fare i processi. I condannati vanno dentro. E quelli che hanno la fedina penale sporca non possono, non dico fare i partiti perché mi sembra che... Sentendo ancora Renzi in diretta sulla 7, 8 e mezzo. Nel frattempo il presidente del Consiglio Gentiloni lancia un appello. Serriamo le file e cerchiamo di mettere al riparo il governo dalle fibrillazioni di questi giorni, ha detto Gentiloni in apertura del Consiglio dei Ministri, secondo le indiscrezioni. Il Premier avrebbe espresso vicinanza a Luca Lotti per gli attacchi ricevuti, ma intanto il Movimento 5 Stelle chiede al Presidente del Senato Pietro Grasso di convocare immediatamente la conferenza dei capigruppo per la mozione di sfiducia al Ministro dello Sport, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. Nel PD c'è turbolenza. Michele Emiliano, uno degli sfidanti di Matteo Renzi, attacca su Corriere TV. Lotti tragga le conseguenze. Bisogna avere gli anticorpi per evitare quei sistemi. Penso che se io fossi in Parlamento e ci fosse una comunità pensante, il Partito Democratico non si farebbe portare a rimorchio dalla mozione di sfiducia dei grillini, ma interverrebbe a tutela di se stesso e del Paese, nonché dell'immagine del governo Gentiloni. Gianni Cuperlo chiede poi a Lotti un passo di lato, mentre Emanuele Fiano lo accusa di sciacallaggio, espressione di cui poi si scusa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sentirei ancora qualche passaggio, sempre di Renzi in diretta sulla 7, 8 e mezzo, magari registrato poco fa, ma insomma, in questo momento. Si era disabituato un po' a questo clima? Guardi, come vede, quando uno lascia ci sono tanti elementi di dolore, di dispiacere, ma c'è anche un elemento di meraviglia, che è quello di ritornare a vivere, di gustarsi dei momenti anche personali, umani. Non sappiamo se crede Renzi, che naturalmente ha così ambizione e voglia di fare la propria esperienza, la propria carriera in politica, dire che è più contento fuori. Comunque ci sono evidentemente fattori positivi dentro e fuori. Nuovo capitolo adesso della saga dello stadio della Roma. Oggi la conferenza dei servizi ha detto no alla proroga chiesta dai proponenti del progetto di Tor di Valle, ma è scontro tra la sindaca Raggi e la Regione Lazio. Doveva essere il giorno in cui tutti gli enti e gli attori che orbitano sullo stadio di Tor di Valle avrebbero dovuto trovare la quadra sul progetto 2.0, ma così non è stato. La conferenza dei servizi, ovvero l'organo tecnico della regione che raccoglie tutti i pareri sul nuovo stadio della Roma, si è conclusa negando la proroga di almeno 30 giorni richiesta dai proponenti per ridefinire i dettagli del progetto dopo l'accordo con la giunta Raggi. Sul tavolo rimangono adesso i pareri negativi di Comune di Roma, Città Metropolitana e Regione, che ha espresso parere di dissenso costruttivo e su cui pesa anche il vincolo espresso dal MIBACT. Cosa potrebbe succedere adesso lo spiega Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio. Se c'è un altro progetto, semplicemente si fa un'altra conferenza dei servizi, c'è un altro impatto, si chiedono altri pareri e si ricomincia l'iter da capo. Questo è quello che dovrebbe succedere in assoluto, passando da una nuova delibera in consiglio comunale, speriamo. Un'ancora di salvezza potrebbe arrivare dalla Regione Lazio, che ha posticipato il termine della propria decisione al 5 aprile, dando la possibilità agli altri enti coinvolti e ai proponenti di formulare risposte alle prescrizioni contenute nei vari pareri. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poco fa la sindaca Raggi ha fatto sapere che risulta che siano stati gli uffici della Regione Lazio a non voler concedere la sospensione della conferenza dei servizi. Spiace, ha concluso la sindaca, che in regione qualcuno cerchi di strumentalizzare questa vicenda che abbiamo sbloccato dopo 6 anni di immobilismo. Pronta la risposta della regione, che ha già messo online il verbale della seduta da cui risulta l'effettivo andamento della conferenza oltre le azioni dei rappresentanti della giunta capitolina. E adesso parliamo, visto che uno degli argomenti principali di oggi, avete visto anche sui vari siti, dei redditi dei politici. Sono l'unico che con la politica ci ha rimesso e ne sono orgoglioso. Beppe Grillo è il primo a commentare in un tweet il bollettino pubblicato online delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2016 dei politici, una lista che comprende non solo deputati e senatori, ma anche membri degli ultimi due governi e dirigenti di partiti e movimenti. Il reddito imponibile del leader 5 Stelle è crollato dagli oltre 350.000 euro per il 2015 ai quasi 72.000 del 2016, cifra che lo rende più povero dei suoi. Di Maio, Di Battista e Fico hanno infatti tutti dichiarato la stessa cifra, 98.471 euro, esattamente come un anno fa. Nel governo la più ricca è la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, quasi 181.000 euro. Il più povero, il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, che non raggiunge i 47.000 euro. Solo poco più di lui dichiara a sorpresa il ministro dell'economia Padoan, passato dai 216.000 euro dell'esordio con il governo Renzi ai neanche 50.000 euro del 2016. Il presidente del Senato Grasso si conferma molto più facoltoso della presidente della Camera Boldrini, 340.000 l'uno, 144.000 l'altra. Matteo Renzi dichiara 103.000 euro, poco meno dell'anno scorso, di oltre 109.000 il reddito invece dell'attuale premier Paolo Gentiloni. Tra i capigruppo alla Camera, il più abbiente è Giovanni Monchiero, di Civici e Innovatori, 220.000 euro. Solo secondo, Renato Brunetta, di Forza Italia, con 215.000 euro. Al Senato, a battere tutti gli altri capigruppo, con 423.000 euro dichiarati, Carl Zeller, presidente del gruppo per le autonomie. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo servizio probabilmente risponde anche a Fabio, che scrive: Roberta, puoi spiegare cosa c'entra il reddito di Grillo, che non percepisce soldi dallo Stato? Diciamo, è un leader politico comunque, cos'è, del secondo soggetto politico in Italia. E poi lui stesso ha commentato dicendo: sono orgoglioso di essere, entrando in politica, di aver così ridotto il mio stipendio, il mio patrimonio. E a proposito di politica, in media l'82% dei giovani europei mancanza di fiducia nel sistema politico, l'82%, e le punte di sfiducia massima sono in Italia: il 94% dei giovani non ha fiducia nel sistema politico, e poi in Grecia il 92%, Francia anche in Francia il 92%. Sono fra i dati che emergono da Generation What Europe, il progetto della European Broadcasting Union, che ha rivelato che le opinioni di quasi un milione di ragazzi fra il 18 e i 34 anni in Europa su una serie di temi chiave che interessano la loro vita, tra cui la politica. Adesso andiamo all'estero, con un'orribile scoperta in Irlanda, un ritrovamento che riapre vecchie ferite e che mina ulteriormente il prestigio della Chiesa cattolica. This news is very disturbing and will touch everyone's heart. Una notizia sconvolgente. Così il ministro irlandese per i giovani Catherine Zappone ha definito la conferma dell'esistenza di una fossa comune in un ex orfanotrofio cattolico a Tuam, nord-ovest del paese, poche decine di chilometri da Galway. Il ritrovamento è avvenuto nel corso dell'inchiesta di una commissione dedicata a indagare il lato oscuro di queste case per ragazze madri gestite da religiose. I primi indizi fanno ritenere che siano state 800 le sepolture illecite di neonati. Alcuni di loro sono apparsi ancora in stato fetale, mentre gli altri avevano al massimo 2-3 anni. Le religiose avrebbero utilizzato vere e proprie camere sotterranee, trasformate in fosse comuni, per seppellire i bebè. Le case per ragazze madri hanno operato in Irlanda tra il 1925 e il 1961. Un orrore che riapre una pagina nera della Chiesa Cattolica d'Irlanda, colpita a partire dagli anni 2000 da una serie di pesantissimi scandali tra pedofilia, abusi sessuali e torture su bambini. Quattro i casi più eclatanti, ribattezzati Ferns Report, Ryan Report, Murphy Report, fino allo scandalo di padre Brendan Smith. Nella casa per ragazze madri di Tuam è emerso che le donne e i loro figli hanno sofferto per anni malnutrizione, malattie e miseria, con altissimi livelli di mortalità. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso in Francia, dove la leader dell'estrema destra francese, candidata alle presidenziali, Marine Le Pen, è stata raggiunta da una convocazione da parte dei giudici per la vicenda degli assistenti parlamentari di Strasburgo in vista di una sua iscrizione fra gli indagati, ma la leader del Front National ha subito annunciato di non voler rispondere alla convocazione. Migranti, si chiamavano Mamadou Konate e Doumbi, avevano 33 e 36 anni, venivano dal Mali. Due migranti morti nel rogo del Granghetto, la baraccopoli tra San Severo e Rignano Garganico in Puglia. A identificarli sono stati altri migranti. Il ghetto è abitato da alcune centinaia di persone che lavorano nelle campagne della zona. Due giorni fa era cominciato lo sgombero, nonostante le proteste degli immigrati. Il PM comunque ha escluso per il momento che questo incendio sia stato doloso. Non è purtroppo però l'unica baraccopoli di questo tipo in Italia, poi tra poco ne parleremo. L'economia adesso. Per l'Istat, nel quarto trimestre del 2016 il PIL, prodotto interno lordo, cresce dello 0,2%, ma resta ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Con la lunga recessione perse oltre 194.000 imprese e quasi 800.000 addetti. Cresce il PIL italiano nel 2016, ma resta ancora inferiore di oltre il 7% al picco pre-crisi d'inizio 2008. Lo certifica l'Istat nella revisione dei conti economici. Nel quarto trimestre dello scorso anno, il prodotto interno lordo è infatti cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% su base annua. Sale inoltre la competitività del sistema produttivo, spiega sempre l'Istituto di Statistica nel rapporto sull'azienda Italia, ma con la lunga recessione il paese ha perso oltre 194.000 imprese in 4 anni fino al 2014 e quasi 800.000 addetti. La ripresa c'è, assicura il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva. La crescita del PIL nel 2016 è la più alta dal 2000, sostiene, e l'industria manifatturiera è fuori dalla seconda recessione. Ma per il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, c'è ancora tanta strada da fare per tornare ai livelli di crescita pre-crisi. Il paese, dice, è in una fase di transizione e la situazione è ancora quasi emergenziale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso la cronaca con l'ennesimo femminicidio, quello di ieri sera a Iglesias in Sardegna. Confessato il marito, l'assassino Giovanni Murro, 46 anni, di Iglesias, ad aver ucciso ieri con numerose coltellate al collo la giovane moglie di 30 anni per folle gelosie, perché lei si era separata da dicembre. L'omicidio è avvenuto davanti alle 3 figlie di 4, 6 e 9 anni. L'uomo ha confessato, tra l'altro si tratta di un omicidio annunciato, poiché già a dicembre c'era stata una terribile lite innescata dalla pazza gelosia dell'uomo che accusava la moglie di tradimento, era sfociata poi in una denuncia per percosse nella separazione e poi nell'accordo legale sulle figlie. C'erano state più volte denunce e poi ieri è finita così, come tante tante altre volte. Per chiudere il calcio, cinesi impegnati per chiudere appena possibile l'acquisto del Milan, e quanto si apprende da una nota della società SES, Sino Europe Sport, nel manifestare il proprio disappunto per i ritardi nella finalizzazione del closing dovuti a cause al di fuori del suo controllo. La società conferma di essere fortemente impegnata a continuare a lavorare con Fininvest per raggiungere il closing, quindi la chiusura insomma di questo accordo, il prima possibile e con un dettagliato piano di investimenti già pronto. Noi siamo già pronti adesso per aggiornare chi sta viaggiando con la viabilità, tra pochissimo quindi cominceremo a approfondire i temi. Pagina Facebook di Effetto Notte per voi, potete aderire senza indugio tra l'altro a questa pagina se volete scrivere anche i vostri commenti, oppure scrivete messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Per esempio Renzi, dice questo ascoltatore, ha detto che suo padre si difenderà nel processo, ma è un lapsus? No, Renzi ha semplicemente detto che se ci sarà un processo, auspica addirittura, se dovesse essere colpevole poi il padre, che ci sia una pena raddoppiata per dare un segnale. Questo aveva detto. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano con voi, e c'è sempre Matteo Renzi alla 8:30 sulla 7, sta andando avanti un po' oltranza, un'intervista insomma, diciamo, dopo tutta questa vicenda della Consip. Sentiamo ancora cosa dice. La cosa più importante che ha imparato e la cosa più importante che ha detto in Lili Gruber, che lo sta intervistando. Beh, ora se va sul personale, la cosa con i miei figli, per mille motivi, più che quello che ho detto è quello che ho ascoltato. Io ho figli 16, 14, 11 anni. E tornare ad avere delle occasioni di incontro è sempre interessante per ascoltare, ed è molto bello, anche se poi tu ti rendi conto che quando fai politica non è che la fai perché ti sei messo in testa chissà che cosa, la fai perché pensi di dare ai tuoi figli un futuro diverso, ma anche ai figli degli altri. Quindi va bene, abbiamo sentito altri passaggi diciamo più pregnanti in questa lunga intervista questa sera 8:30 sulla 7 a Renzi, e adesso tra pochissimo cominciamo a parlare sia del piano giudiziario che di quello politico, di questa vicenda della Consip che abbiamo seguito anche in questi giorni. Però se non avete acceso puntualmente alle 21, mentre voi state scrivendo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, vi ricordo quali sono stati i fatti, quali sono i fatti principali della giornata. Nella vicenda Consip oggi Tiziano Renzi, interrogato, ha detto mai preso soldi, non c'è mai stato abuso del cognome, e l'ex premier, l'ex presidente del Consiglio Renzi, Matteo, dice se colpevole mio padre auspico il doppio della pena, lo avete sentito anche prima a 8:30. E poi Renzi esclude un rinvio del congresso del PD, dice non c'è nessun alibi, intanto il centrodestra è spaccato sul leader. E poi sentiremo anche Emiliano, Orlando eccetera cosa hanno detto su questa vicenda. nel governo, a proposito dei redditi che sono stati pubblicati dei politici, nel governo la ministra Valeria Fedeli ha il reddito più alto, ultimo è Martina, ministro dell'Agricoltura, precipita l'imponibile di Grillo, cosa di cui si è detto orgoglioso, anche Renzi dichiara meno evidentemente dell'ultima dichiarazione dei redditi. Poi prosegue Russia Gate, negli Stati Uniti bufera sul genero di Trump e altri due collaboratori, tutti insomma accusati di avere rapporti un po' troppo ravvicinati con la Russia. E poi in Francia invece, in vista delle presidenziali tra due mesi, Marine Le Pen, candidata dell'estrema destra, convocata dai giudici, mentre Fillon, l'altro candidato, quello della destra, dice solo nell'abisso non andrò, e fa sapere insomma che prosegue la sua strada, la sua candidatura alla presidenza. Tornando in Italia, l'incendio nel gran ghetto di Rignano in Puglia, sono morti due migranti. Ieri era appena iniziato lo sgombero, nonostante le proteste dei migranti, ci sono state fiamme violente, improvvise, ma i PM escludono l'origine dolosa. E poi questa orribile vicenda in Irlanda, è stata trovata una fossa comune in un vecchio orfanotrofio cattolico, 800 bimbi morti nei decenni scorsi in una casa gestita dalle suore. Quindi torniamo sull'inchiesta Consip, sui vari sviluppi di giorno in giorno. Abbiamo seguito qui Effetto Notte, oggi c'è stato l'interrogatorio, questa è la notizia più importante, di Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi, indagato dalla Procura per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta Consip. L'avevamo spiegato già in questi giorni, il traffico di influenze è un reato piuttosto recente, che consiste nel farsi, diciamo, intermediario tra corrotto e corruttore, diciamo, vantando una conoscenza importante, in questo caso secondo l'accusa, perché Tiziano Renzi era padre dell'ex presidente del Consiglio. Secondo i PM, Tiziano Renzi avrebbe aiutato l'imprenditore campano Alfredo Romeo, che è stato arrestato nei giorni scorsi, a rafforzare i suoi rapporti in Consip, che è la centrale acquisti della pubblica amministrazione, in cambio della promessa di denaro. Cioè, secondo l'accusa, Tiziano Renzi avrebbe detto: ti raccomando io, ma in cambio, appunto, in cambio di denaro. L'interrogatorio prevedeva varie domande che adesso cercheremo di capire con la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore. Ciao Sara. Ciao, buonasera. E poi a Firenze è stato interrogato per oltre tre ore invece Carlo Russo, no? Amico, imprenditore, amico di Tiziano Renzi di vecchia data. Che cosa è emerso da questo interrogatorio? Sara, ricordiamo che avrebbe dovuto rispondere Tiziano Renzi sulla sua partecipazione o meno a quella famosa cena in una trattoria con questo Alfredo Romeo, questo imprenditore che era stato arrestato, e l'amico Carlo Russo, per studiare un po' le strategie relative agli appalti Consip. Poi ci sono le affermazioni di Luigi Marroni, amministratore delegato di Consip, che diceva di aver ricevuto pressioni, no? Anche dallo stesso Renzi per assecondare le richieste di Romeo. Poi bisognava chiarire delle varie intercettazioni in cui Romeo parla di soldi e contanti, chiede se il dottore ha gradito, che pensano che il dottore possa essere Tiziano Renzi. Come è andata, quindi, per quel che si sa, Sara? Sì, è stata una giornata tutta dedicata agli interrogatori, quindi iniziato con quello di Carlo Russo, l'amico del settore farmaceutico legato a Tiziano Renzi, che si sarebbe ovviamente difeso sostenendo di non avere avuto contatti, di non avere comunque certamente tentato di corrompere. L'interrogatorio più atteso ovviamente era quello di Tiziano Renzi a Roma. Entrambi sono, come tu giustamente hai detto, accusati di traffico illecito di influenze. Si sarebbero in qualche modo, per semplificare, fatti intermediari per Alfredo Romeo, l'imprenditore napoletano arrestato qualche giorno fa per corruzione, per aver tentato di aggiudicarsi una gara che poi in realtà non gli è stata contrattualizzata, pagando un funzionario di Consip. Per loro, per il funzionario di Consip e per Romeo, c'è appunto la corruzione, il reato più grave. Nella fase intermedia si trova Russo e Tiziano Renzi. Tiziano Renzi, ovviamente, anche per evitare ovviamente il rischio di salire di livello, come abbiamo detto anche nei giorni passati, si è difeso dicendo di non aver mai incontrato né Russo né Romeo, quindi nega l'esistenza di queste cene e queste famose bistecche ormai diventate note nelle cronache degli ultimi giorni, in queste bettole con ingressi preferenziali. nega anche ovviamente di essersi recato nei vertici di Consip per parlare bene e per fare qualche pressione ai vertici di Consip. Sara, io farei sentire, a proposito della difesa di Tiziano Renzi, il suo avvocato che alla fine di questo interrogatorio di oggi ha parlato, ha rilasciato qualche dichiarazione. Sentiamo questo passaggio, si chiama Federico Bagattini. È andata bene, nel senso che il dottor Renzi ha risposto a tutte le domande che sono state poste. Non ci sono state contestazioni diverse rispetto a quelle che già conoscevamo, sia dal decreto di perquisizione del russo che dalla lettura dei giornali. I pubblici ministeri hanno chiesto conto dei rapporti del dottor Renzi con tutti i protagonisti di questa vicenda. Il dottor Renzi ha risposto e dal nostro punto di vista l'interrogatorio è andato molto bene. Questo ha detto l'avvocato, Sara. La linea difensiva di Bagattini è quella appunto di sottolineare il fatto che poi tutte le accuse sono riferite a degli fatti che non sono proprio mai avvenuti. Non si nega l'amicizia tra Renzi e Russo, perché è un'amicizia storica, è un'amicizia familiare. Oggi spiega appunto lo stesso avvocato che è di tipo religioso, quindi contatti diciamo di pellegrinaggi fatti insieme alla famiglia Renzi, ma allo stesso tempo si sottolinea che non è mai stata presa nessun accordo, nessun appuntamento e tantomeno nessuna remunerazione. Anzi, vorrei dire che in realtà a questo punto la linea difensiva non emerge qui, ma è emersa nei giorni passati, è ancora più radicale. Qui si tende addirittura a sottolineare il fatto che probabilmente Russo ha parlato per conto suo, senza avvertire Renzi e mettendolo un po' nel mezzo, come potremmo dire, vantando un rapporto con lui, avrebbe lui da solo parlato con Romeo e parlato a nome suo, un po' per vanteria o un po' per affari suoi, ma insomma senza che Renzi ne fosse consapevole. Quindi questo incontro a tre, questa cricca non c'è mai stata. Si tende quasi appunto a scaricare la responsabilità su Russo soltanto. L'interrogatorio di oggi, ovviamente al momento sappiamo la parte ufficiale, però evidentemente sta andando in questa direzione, cioè negare il fatto che ci siano stati degli incontri e negare il fatto che poi ci sia stato un incontro successivo con l'amministratore delegato Luigi Marroni, amministratore delegato di Consip, che è stato chiamato a parlare come persona informata dei fatti, non indagata. Nei suoi interrogatori sappiamo che ha detto di aver avuto delle pressioni da cui si è difeso ovviamente per non facendo nulla, insomma mantenendo un comportamento ligio al proprio dovere, ma evidentemente ha sottolineato il contatto. Renzi, ovviamente Tiziano Renzi non nega la conoscenza di Marroni, perché anche qui si tratta di amicizie storiche, amicizie nate diciamo nella stessa terra di origine. Quindi diciamo che la linea difensiva è proprio negare anche l'esistenza di rapporti recenti. Chiaro. Grazie Sara Monaci. Fin qui insomma quindi l'inchiesta che ci ha chiarito in questi giorni Sara nei vari passaggi e capiremo poi la prossima settimana insomma che piega prenderà questa vicenda. Grazie Sara Monaci, buon lavoro. Grazie. Quindi dicevamo fin qui le inchieste, il fronte giudiziario diciamo, però ovviamente come dicevamo in questi giorni inevitabile anche no, che ci sia un livello politico quando tra i protagonisti di un'inchiesta come questa ci sono anche dei nomi che sono politici o di persone molto molto vicine a degli esponenti politici anche di spicco con il rischio appunto di creare delle turbulenze nell'agone politica. Nell'inchiesta Consip abbiamo detto indagato il padre di Matteo Renzi, no, Tiziano Renzi, per traffico di influenze, spiegavamo prima di cosa si tratta. C'è anche indagato nell'inchiesta anche Luca Lotti, che è uomo fedelissimo di Renzi e ministro dello sport, è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, perché avrebbe fatto sapere ai vertici Consip quello che insomma che c'era in corso un'inchiesta. C'è la mozione di sfiducia annunciata da parte del Movimento 5 Stelle, anche la Lega vuole votare per la sfiducia al ministro Lotti, Renzi lo ha difeso, abbiamo sentito prima qualche passaggio, forse possiamo sentire adesso il passaggio di Renzi che ha 8 e mezzo, che abbiamo sentito prima qualche stralcio, difende Lotti. Conosco Luca Lotti da anni, credo che sua moglie Cristina e i suoi figli Gerardo e Anita, che sono molto piccoli, debbano sapere di avere una persona straordinariamente onesta in casa, e questo lo dico perché a differenza di altri, quando ci sono alcuni dei propri collaboratori messi in difficoltà, ci sono quei leader politici che scaricano gli altri. Io non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Quando è accaduto qualcosa a Graziano Del Rio, a Maria Elena Boschi e oggi a Luca Lotti, siccome io conosco queste persone, io non accetto processi sommari. E vediamo alla fine che cosa accadrà. Io sarei pronto a scommettere che questo reato è un reato che Luca Lotti non ha commesso e che il generale Tullio Del Sette, cui va la mia assoluta stima, non ha commesso. Quindi questa è la difesa di Renzi nei confronti di Lotti, però non ha convinto completamente all'interno del suo partito. Per esempio sentiamo Gianni Cuperlo che cosa ha detto a proposito di Lotti. C'è un ministro direttamente coinvolto, il ministro Lotti rivendica giustamente, legittimamente la sua completa estraneità ai fatti. C'è una mozione di sfiducia che credo oggi sia stata presentata dalle forze di opposizione, ma anche qui io non chiedo le dimissioni di nessuno, io dico, parlo per me, che al posto del ministro Lotti, convinto della mia estraneità a quei fatti, anche per togliere dall'imbarazzo il governo di cui faccio parte, io un passo di lato lo farei. Quindi Cuperlo dice invita Lotti a fare un passo di lato. Emiliano, candidato alla segreteria contro Renzi, le prossime primarie, dice Luca Lotti tragga le conseguenze. Poi ieri è arrivata anche la condanna a 9 anni di reclusione per Denis Verdini, senatore di Ala, è stato sostenitore più volte del governo Renzi, condannato per bancarotta e truffa per il crack dell'ex credito cooperativo fiorentino di cui è stato presidente per 20 anni. Insomma, chiedo alla nostra Emilia Patta del Sole 24 Ore. Ciao Emilia. Buonasera. Con questa situazione molto, diciamo, incandescente al momento almeno, quali possono essere le ricadute su Renzi, sul PD e anche sulla tenuta del governo? La situazione è sicuramente complicata, però oggi è il giorno, diciamo, del contrattacco, no? Dei renziani e della maggioranza del PD. Renzi ha detto chiaramente dalla Gruber poco fa che qualora il padre avesse commesso qualche reato dovrebbe essere condannato doppiamente. Infatti Emilia, l'abbiamo fatto sentire e lo facciamo risentire questo passaggio che è importante. Per me, quando c'è un processo, i cittadini sono tutti uguali, anzi, se mio padre ha commesso qualcosa, non soltanto è giusto che vada a processo subito, mi piacerebbe pensare che se fosse davvero colpevole dovrebbe avere una pena doppia. Questo ha detto, sì. Sì, quindi insomma si intravede anche un tentativo di prendere le distanze qualora effettivamente poi dovesse essere rimandata a giudizio, non tanto per corruzione, come ha spiegato Sara, non sembrano proprio esserci gli elementi, ma per quest'altro reato, no? Traffico di influenze. Quindi insomma il messaggio che lui dà, io non mi ritiro dalla corsa alla segreteria, neanche morto, sostengo Lotti e aspettiamo in ogni caso i processi. Quindi tende un po' a separare la sua figura da quella del padre. Ha quasi difeso più Lotti, no? Che sì, non il padre. Sì. Credo che siano ore anche di personale sofferenza, insomma, che non si deve fidare, e lui dice che si fida anche, insomma, nelle conversazioni private, però certo la situazione è delicata. Detto questo, anche Guerini, Orsini si sono schierati con lui, e anche Franceschini, che in questi giorni era stato additato come il possibile, come dire, artefice di un ribaltone, no? Oggi ha smentito le ricostruzioni su di lui, ha detto che il congresso si farà, le primarie si faranno alla data stabilita, non ci sarà nessun rinvio, e lui continua ad appoggiare Renzi. Al momento anche il governo, anche Paolo Gentiloni, oggi in Consiglio dei Ministri sembra che abbia fatto un discorso piuttosto duro per il suo standard, no? Basta con questo fango, teniamo il governo al riparo, e ha espresso poi la solidarietà a Luca Lotti a margine del Consiglio dei Ministri. Quindi al momento, ecco, si tiene, diciamo, la maggioranza del PD. Però è chiaro che se la vicenda giudiziaria non si chiude presto, e se addirittura si dovesse arrivare a un rinvio di giudizio per il padre di Renzi, diventa più difficile la sua posizione politica. Insomma, la forza di Renzi è ancora al momento che, soprattutto dopo l'uscita degli scissionisti, non ci sono reali alternative alla sua leadership, e di questo ne sono consapevoli anche appunto i renziani, diciamo così, i diversamente renziani come Franceschini, no? Come molti ex popolari, però è chiaro che insomma il danno d'immagine sarebbe sarebbe molto forte, sarebbe più difficile. Emilia, per chiudere ti sottopongo uno dei vari messaggi che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Dice Ulisse, con l'arresto di Romeo Novello Mario Chiesa è probabile sia cominciata Tangentopoli 2, la Tangentopoli della Seconda Repubblica. Ti sembra che possa essere, anche se naturalmente appena iniziato bisogna vedere come procede, no, questa inchiesta, magari finisce nel nulla o che ne so. Ma al momento non sembrano esserci elementi, ecco, per parlare addirittura di una seconda Tangentopoli. Ricordiamo che le accuse che riguardano le persone vicine a Renzi, cioè il padre e Luca Lotti, che è anche un amico, non riguardano la corruzione, ecco, insomma, finché non c'è stato passaggio di denaro e comunque l'entità di questa cosa non sembra essere come quella magmatica di Tangentopoli del 92. Ma anche perché nel frattempo un pochino di anticorpi sono stati messi, la stessa Consip, se ci pensiamo, era nata proprio per evitare, no? Per razionalizzare, controllare la spesa della pubblica amministrazione. No? C'è un cantone che è comunque il presidente dell'ANAC, qualche anticorpo è stato messo questi anni, insomma speriamo, ecco, che non sia una nuova Tangentopoli. Non sembrano esserci gli elementi. Grazie Emilia Patta del Sole 24 Ore, ciao, buon fine settimana, buona serata. Adesso noi ci prendiamo questa pausa, come sempre pausa spot, e ritorniamo tra pochissimo. Pagina Facebook di Effetto Notte per voi, per i vostri messaggi, per aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre quello 349-238-6666. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Dal 4 marzo al 13 maggio ascolta giovani talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente della vicenda Consip, abbiamo sentito anche tanti passaggi in diretta, insomma collegandoci con la 7, 8 e mezzo di Renzi, che è passato al contrattacco, nel senso che si aspettava qualche giorno che dicesse la sua sull'inchiesta Consip, visto che è indagato anche suo padre Tiziano. Abbiamo sentito vari passaggi, diceva: se mio padre effettivamente è colpevole, auspico anche che abbia una pena doppia per dare un segnale. Ha difeso poi piuttosto strenuamente l'amico e ministro Lotti, dicendo che scommetterebbe sulla sua innocenza, e poi ha detto in realtà dietro forse c'è un disegno, una storia vecchia, si sta parlando di tutto tranne che delle cose importanti, insomma, quindi diciamo questa vicenda un po' a cavallo tra magistratura, tra fronte giudiziario e fronte politico. Ora invece cambiamo completamente argomento, anche se vi ricordo tra pochissimo quali sono le notizie più importanti, per essere aggiornati sempre a fine giornata su quelle che sono le notizie principali, anche se non avete acceso puntualmente alle 21, queste sono le notizie più importanti. Inchiesta Consip, interrogato a Roma Tiziano Renzi, che rigetta ogni accusa. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, a 8 e mezzo, dice: c'è un disegno dietro, è una storia vecchia, ma se mio padre è colpevole auspico una pena doppia, e difende Lotti, ma il Movimento 5 Stelle e Lega chiedono la sfiducia per il ministro. Stadio della Roma, pareri negativi in conferenza dei servizi, negata la sospensione di 30 giorni. Redditi dei politici, tra i ministri vince Fedeli, il più povero Martina, in calo Grillo, stabile Renzi. Orrore in Irlanda, scoperta una fossa comune in un ex orfanotrofio cattolico chiuso 50 anni fa. Francia, Marine Le Pen convocata dai giudici per essere indagata, la leader del Front National annuncia: non risponderò. Migranti, incendio nel granghetto di Rignano, due morti, ne parleremo tra pochissimo. E per il calcio, per l'acquisto del Milan, i cinesi si dicono impegnati per il closing il prima possibile. E la notizia di oggi, tragica, che riguarda ancora una volta i migranti, è l'incendio nel granghetto di Rignano, in Puglia, vicino Foggia, dove sono morti appunto due migranti. Sono scoppiate le fiamme violente, un rogo improvviso, ma i magistrati escludono che ci sia stata, che sia stata origine dolosa. Il ghetto è abitato da alcune centinaia di persone che lavorano nelle campagne della zona, sapete, no? È facile, si parla di caporalato, di grave sfruttamento. Due giorni fa è iniziato lo sgombero di questo campo, nonostante le proteste degli immigrati, però molti erano tornati lì. Quante altre situazioni simili ci sono in Italia? Lo chiedo a Valentina Furlanetto, nostra Valentina. Ciao Valentina. Ciao Roberta, ciao agli ascoltatori. Sì, come dicevi, è una situazione che ha a che vedere col caporalato, con lo sfruttamento dei braccianti e in parte anche con la situazione dei flussi migratori, chiaramente. Una situazione non isolata che si replica in realtà in diverse parti, sia in Puglia, dove ci sono almeno tre siti, quindi quello di Rigliano sicuramente, già a dicembre tra l'altro era scoppiato lì un incendio, c'è stata una persona intossicata, poi c'è Andria, dove i braccianti stranieri si mescolano in questo caso a quelli italiani, lo ricorderete, la lavoratrice italiana che era morta dalla fatica. Sempre Puglia anche in questo caso, sempre, no, Andria? Puglia, molto vicino in realtà a Rigliano. A Rignano. Un altro posto attenzionato, sempre in Puglia, è Nardò. Anche lì migliaia di stranieri, di giorno raccolgono i pomodori, di notte dormono nelle baracche. Un'altra area molto calda è quella della Calabria, nella piana di Gioia Tauro, a Rosarno, dove da anni in realtà sono accampati in migliaia, per lo più africani. C'era stata anche in gennaio di qualche anno fa una forte sommossa. Non è cambiato molto da allora, semplicemente le telecamere, il faro dell'informazione non sta attenzionando questi luoghi, lo fa soltanto quando scoppiano gli incendi oppure le proteste. Valentina, senti, tu sei stata spesso in questi luoghi, anche all'estero, no? E, hai chiesto anche alle istituzioni, non so, ai sindaci, alle forze dell'ordine, capisco e capiamo ormai che la gestione dei flussi migratori così ingenti, sempre più complicato, anche perché l'Europa ancora non aiuta, nonostante continui a dire no ogni giorno, insomma ognuno si deve prendere la propria quota di migranti, eccetera. Hai chiesto cosa è possibile fare, come mai le situazioni rimangono così, insomma più o meno simili finché non scoppiano queste tragedie. Sì, tra l'altro volevo concluderti anche il fatto che non sono soltanto a sud, ci sono ad esempio comunità di indiani Sikh nel Lazio, ma anche più a nord, che si occupano di raccogliere frutta e verdura nelle serre invece che della mungitura degli animali, no? Delle mucche. E quindi sì, sicuramente situazioni al limite, sia per le questioni lavorative, dei diritti dei lavoratori, a cui si accompagnano spesso questi ghetti, che sono proprio vere e proprie baraccopoli. Quando parliamo della giungla di Calais, non siamo molto distanti da queste baracche di lamiera e cartone e materassi per terra che si trovano in questi agglomerati spontanei. Tu facevi riferimento giustamente ai flussi migratori, perché chiaramente queste persone, ci sono degli italiani, ma maggior parte di loro sono migranti africani, ma abbiamo visto appunto anche indiani, molti anche rumeni dell'est Europa. Però io distinguerei, Roberta, tra insediamenti cosiddetti informali, baraccopoli in pratica, sì, no? Che vengono a crearsi vicino ai campi per una situazione di caporalato e sfruttamento come queste, da quelle degli insediamenti informali creati invece da situazioni in cui i migranti non riescono a entrare nella accoglienza ufficiale, e ce ne sono molte. Ad esempio la più grande, la più importante, di cui si parla niente, è quella dell'ex villaggio olimpico Torino, che ospita attualmente circa 1500 persone. A Torino? Migranti che hanno... Sì, a Torino, l'ex villaggio olimpico, ce lo ricordiamo tutti, è stato abbandonato e quindi sono entrati, hanno occupato abusivamente chiaramente tutte le piccole casette che fanno parte dell'ex MOI, e in quest'area tra l'altro è anche pericoloso entrare, certo. E vige una legge interna. Emergenza nell'emergenza, infatti Valentina. Cosa fanno le istituzioni? Beh, nel caso del caporalato c'è stata una legge italiana votata dalla Camera l'anno scorso. A novembre, che ha sicuramente inasprito le pene e sta cercando di fare qualcosa. In realtà si tratta anche di criminalità organizzata. Per questo il campo, il ghetto di Rignano è stato sgomberato. Quindi la situazione è difficile a più strati, no? Invece altro è l'accoglienza di migranti che in tanti casi, come quello di Torino, si trovano in questo villaggio olimpico perché non riescono a entrare nelle strutture perché non c'è abbastanza posto. Ci sono anche casi a Roma di palazzi o a Padova di fronte alla zona centrale della fiera, c'è un palazzo abusivamente occupato. Quadro, Valentina, ci dobbiamo lasciare, il quadro è chiaro, insomma, ci hai parlato di tante situazioni dove poi quando scoppia l'emergenza, quando scoppiano le tragedie, ritornano così alla ribalta delle cronache e spero però anche delle istituzioni, perché qualcosa ovviamente bisognerà fare, visto che sono così tante questi accampamenti, queste baraccopoli di cui parli, al di là che si distingua da chi non riesce appunto a integrarsi, a chi viene sfruttato per poche lire, pochi euro. Grazie Valentina Furlanetto intanto. Ciao. Grazie Valentina. A te, buona serata. Viabilità. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi fino alle 22. Vi ricordo molto brevemente le notizie principali di oggi. È stato interrogato nell'ambito dell'inchiesta Consip il padre di Matteo Renzi, Tiziano Renzi. Ha detto: mai preso soldi, non ho mai abusato del mio cognome. E intanto a 8:30 questa sera Matteo Renzi ha detto: se mio padre fosse mai colpevole meriterebbe il doppio della pena, per dare un segnale. E poi Renzi tra l'altro esclude un rinvio del congresso PD, dice: nonostante la situazione politica non c'è nessun alibi per rinviare il congresso. Intanto c'è anche il centrodestra spaccato sul leader. E poi nel governo sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi 2016 dei politici italiani. Nel governo La Fedeli ha il reddito più alto, ultimo Martina, precipita l'imponibile di Grillo, Renzi stabile. E poi Russia Gate, bufera sul genero di Trump e altri due collaboratori, sempre per rapporti troppo ravvicinati con Mosca. E poi in Francia Marine Le Pen, leader dell'estrema destra, convocata dai giudici per essere indagata. Lei dice: tanto non risponderò, non andrò. E poi abbiamo appena parlato dell'incendio del granghetto di Rignano in Puglia, sono morti due migranti ma il PM esclude che l'incendio sia doloso. E l'orrore in Irlanda, questa fossa comune scoperta in un vecchio orfanotrofio cattolico, 800 bimbi morti nei decenni. Spazio europeo. Europa 24 notte. L'economia russa riparte mentre la crisi ucraina non si sana. Sono passati 3 anni dall'imposizione delle prime sanzioni. Ci siamo abituati, dicono gli imprenditori. Allora sentiamo l'anticipo di reportage di Laura Bettini. Colpiti ma non affondati. La Russia riparte dopo la crisi ucraina e le sanzioni inflitte da UE e Stati Uniti, che resteranno ma non preoccupano più come prima. Perché nel frattempo Mosca si è adeguata, varando una politica di decisa importo zamiescenie, sostituzione delle importazioni. Bisogna produrre in patria ciò che prima si importava, da soli o con partner stranieri. E così molte imprese europee che erano uscite dalla porta sono rientrate dalla finestra o si sono decise a fare il grande salto grazie agli incentivi del governo della federazione. L'ambasciatore italiano a Mosca è Carlo Maria Ragaglini. La recessione in Russia è terminata. Abbiamo avuto questo periodo di crisi che ha portato a una diminuzione del PIL, ma già quest'anno sta iniziando a crescere nuovamente. Le previsioni danno una crescita dallo 0,5 all'1%, anche se c'è una certa unanimità di vedute e di previsione che nel caso in cui i prezzi petroliferi rimanessero stabili o aumentassero, la crescita aumenterebbe ulteriormente. Subito dopo l'inizio della crisi, anche con l'Occidente e soprattutto la svalutazione del rublo, ha indotto le autorità russe a lanciare questa politica che hanno chiamato della sostituzione delle importazioni, proprio per invogliare maggiori investimenti sia russi sia stranieri per accrescere questa produttività, avere prodotti anche esportabili e quindi cercare di diversificare l'economia, oggi troppo dipendente dalle esportazioni di petrolio e di gas. Questo trend si consoliderà nel 2017 sicuramente, mentre ritengo che le vere riforme strutturali prenderanno forma a partire dopo le elezioni presidenziali del 2018. Nel frattempo però la crisi ucraina e le vicende collegate di Crimea e Donbass sono ancora lungi dall'essere risolte e pacificate. Le cose non cambieranno nel breve periodo, sostiene Philippe Gorier, presidente di Alstom Russia e membro del board della AIB, Association of European Business, in Russia. Ma ormai, dice, non ci importa. Oggi penso che le sanzioni resteranno ancora a lungo, ma che a questo punto è difficile dire se per l'economia russa è meglio che vengano tolte o che rimangano. Le sanzioni hanno risvegliato alcuni settori, come ad esempio l'agricoltura. In ogni caso, non si tornerà mai alle condizioni del passato. E poi ormai noi ci siamo adattati alle nuove regole. Le sanzioni non sono più un tema. Ci interessa di più la crescita di questo paese. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana con il nostro portatore sano di sole e di Trebi Meteo, Paolo Corazzon. Allora ce lo porti questo sole, Paolo? Io vorrei tanto, però non è colpa mia se non arriverà. Però guarda, non sarà un weekend così drammatico. Allora, diciamo che domani le regioni settentrionali e del medio-alto Tirreno avranno sì nuvole e piogge, tra l'altro anche parecchio vento, situazione anche piuttosto anomala per il nord Italia, anche in pianura ci sarà parecchio vento, però è vento di scirocco, quindi non porta aria fredda. Però ti ripeto, nord e medio alto Tirreno domani ombrelli a portata di mano, invece pensa domani al sud e sul medio Adriatico temperature fino a 20 gradi e ancora il sole, quindi in mezza Italia domani primavera. Invece domenica le cose si invertono, il maltempo si sposta verso il centro-sud dove quindi caleranno anche le temperature, al nord invece torneranno delle schiarite a cominciare dal nord-ovest, quindi ti ripeto, chi più chi meno avremo sì delle piogge ma anche momenti con un po' di sole. Aggiungo che settimana prossima si parte maluccio al centro-sud, invece al nord già da lunedì gran bel sole, ma poi da metà settimana il tempo si sistema anche al centro-sud. Insomma, davvero piano piano la primavera sta arrivando. Mi sembra una certa par condicio. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao Paolo. Buon tempo a tutti, ciao. Ciao, ci risentiamo brevemente alle 22.